Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 11 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, parleremo di borse e di Brexit, dovete rassegnarvi, lo dico a chi scrive, da qua al 23, e se tutto va bene al 23, se la Gran Bretagna invece, se in Gran Bretagna prevalgono i leave anche dopo il 23, parleremo di Brexit tantissimo, nel senso che resta il tema. Questa sera vi sarà anche l'intervento della Banca Centrale Britannica. Oggi ne ha parlato anche il Ministro dell'Economia Padoan, ne ha parlato il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, che ha chiesto agli amici britannici di non abbandonare l'Unione Europea, perché altrimenti si aprirà un periodo di incertezza nella UE e nel mondo. Sì, insomma, basta non arrivare al begging, come dicono gli inglesi, all'elemosina. Please do visit Italy, please don't leave Europe, no? Per citare il mitico Rutelli. Ecco, sembrava quasi un per favore restate. Il Fondo Monetario Internazionale ha detto che con una eventuale Brexit la volatilità sarà più alta, la crescita più lenta, lo spread BTP Bund sale a 160 punti. Il rendimento del nostro BTP è all'1,57%, per carità, nulla di drammatico, un po' di speculazione, un po' di tensione ci stanno. Il premier spagnolo uscente, Mariano Rajoy, ha detto che l'uscita della Gran Bretagna sarebbe una catastrofe, chissà se pensava solo alla Gran Bretagna o anche alle spinte indipendentiste catalane, sotto. Ne ha parlato comunque Juncker da San Pietroburgo. Cito San Pietroburgo perché oggi è iniziato il mega vertice in cui Unione Europea-Russia, in cui l'Italia è paese ospite e paese quindi di riguardo, è l'unico paese per un padiglione. Domani vi sarà anche l'incontro del premier Matteo Renzi con Vladimir Putin, oggi appunto il presidente dell'Unione Europea Jean-Claude Juncker al forum di San Pietroburgo. Abbiamo la nostra inviata Laura Bettini, che più tardi sentiremo, perché lì, oltre alla parte politica, è chiaro che è fondamentale, viste le sanzioni e le controsanzioni tra Unione Europea e Russia, c'è tutta la parte delle nostre imprese lì presenti nei vari settori, quindi lusso, legno arredo e alimentare, i settori principali del nostro export in Russia. Firmati oggi contratti per 1 miliardo e 400 milioni di euro al padiglione si chiama padiglione Italia in Russia, presso il forum internazionale di San Pietroburgo. Ne parleremo più avanti, dicevo. Parleremo anche di un convegno che si sta per tenere a Venezia, o meglio l'assemblea degli industriali di Venezia e di Treviso, ma il tema è molto interessante perché è delocalizzare in Italia, ossia vanno a toccare il tema del reshoring, cioè le imprese che ritornano in Italia dopo aver delocalizzato all'estero. L'Italia è il paese che ne ha di più come casi, eccezione fatta per gli Stati Uniti, ma il doppio rispetto alla Germania, alla Francia e alla Gran Bretagna, e il nord-est è la regione che ha visto più casi di imprese che sono rientrate. Uno potrebbe dire che hanno rilocalizzato. È più interessante e più bello forse come effetto il tema delocalizzare, sì, ma in Italia, e cercheremo di capire il perché, ma quali ostacoli restano. C'è un interessante studio su quanto costa lo stesso bene prodotto in Italia dopo aver pagato tasse e IVA e qualunque cosa, il prodotto in Italia quanto viene a costare al pubblico, quanto viene a costare negli Stati Uniti, in Germania, in Francia. Insomma, vi dico già che da noi è più caro anche rispetto allo stesso bene prodotto in Germania e prodotto in Svizzera. Io capisco tutto, però con il costo della vita in Germania e in Svizzera è veramente il peso anche e soprattutto della pressione fiscale. E dicevo, di questo parleremo, così come andremo a commentare i mercati oggi nervosi in attesa appunto dell'intervento questa sera del numero uno della banca centrale inglese, che ha lasciato i tassi fermi oggi alla Bank of England a una settimana dal voto e tra l'altro ieri ricordate che il cancelliere dello scacchiere Osborne, che è il ministro dell'economia britannico, ha lanciato l'allarme, dice 30 miliardi di sterline di buco nei conti pubblici, sono circa quasi 40 miliardi di euro, dovremmo aumentare le tasse. Io invito alla prudenza, perché da George Osborne è persona seria, serissima, però tutti questi calcoli così dettagliati, il danno politico è certo, il danno economico-finanziario è probabile, su questo poi bisognerà vedere. Detto ciò, 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, e adesso le notizie in breve partendo dalla borsa. No, do una risposta subito a un ascoltatore che mi scrive: ma come, se usciva se la Grecia fosse uscita dall'euro sarebbe stata la fine d'Europa, se esce la Gran Bretagna è una catastrofe solo per l'Inghilterra. No, allora la Gran Bretagna non è nell'euro e quindi lì c'era il problema anche della moneta unica, non era mai successo che un paese uscisse da una condivisione valutaria, è anche vero che non è mai successo che un paese sia uscito dall'Unione Europea, quindi non abbiamo mai detto che la catastrofe o i danni sarebbero solo per l'Inghilterra, sarebbero anche per l'Unione Europea da questo punto di vista. A mio avviso quelli certi sono quelli politici, cioè l'instabilità politica a cui si va incontro e quindi la pattuglia di paesi che teoricamente sarebbero già pronti a seguire la Gran Bretagna, per soprattutto l'Olanda che ha un rapporto speciale con la Gran Bretagna. Il danno economico e finanziario, bisogna vederlo, ci sono varie stime, la maggior parte delle stime prevedono un danno e quindi conseguenze negative di carattere economico-finanziario, però lì bisogna vedere, ma sul danno politico ci sono pochissimi dubbi, dai. Ah, domani è venerdì 17, sì, è vero, domani è venerdì 17, e però torna la poco invidiabile classifica di Focus Economia. Festeggiamo chiaramente quanto deciso ieri dal governo sui furbetti del cartellino. Però non ci basta, domani ne parliamo diffusamente. Andiamo avanti con notizie, invece dicevo la borsa, meno 1,40% Milano, che quindi vede l'indice FTSE MIB in questo momento a 16.280 punti, e meno 0,60 Parigi, meno 0,80 Francoforte e meno 0,50 Londra. Il Dow Jones perde lo 0,60%, euro debole 1,11, tra i titoli di nuovi bancari, anche se oggi i cali sono molto più contenuti rispetto a altre sedute in queste di queste ultime giornate. Monte dei Paschi meno 4,26, Unipol meno 3,80, Pop Emilia Romagna meno 3,50, Unipol Sai meno 3,20, il 3% lo perde UBI e Unicredit. E poi male anche Saipem, il 2,90 di calo, Telecom il 2,70, Tenaris il 2,5 come Moncler e Anima, Holding il 2,20 e il calo di Fiat e di ST Microelectronics. Fronte opposto Campari più 0,30 come Azimut e Ferragamo, Italcementi più 0,2 come Atlantia. Andiamo avanti con le altre notizie per quello che riguarda, abbiate un po' di pazienza, di Brexit parleremo alle 18.05, vedo molti messaggi, poi mi ricordo che da domani inizia anche il viaggio di Radio 24 sui temi della Brexit a favore, quindi i cosiddetti leave e invece chi è contro e quindi il remain, le varie posizioni, le posizioni economiche, le posizioni politiche, culturali, che cosa capiterà alla Scozia a quel punto. Molti prevedono che in caso di vittoria dei leave la Scozia indirà un suo referendum per restare invece in Europa, e poi avremo una lunga diretta dal 23, però quanto a dirette, una bella settimana quella prossima, perché iniziamo lunedì, anzi domenica sera, con la chiusura dei seggi elettorali, e poi il 23 dalle 21 in poi la lunga diretta fino a luna di notte e poi la mattina presto sull'esito del voto in Gran Bretagna. Allora, molti messaggi. Sì, è chiaro che il danno non c'è per tutti, la finanza è più preoccupata di chi non lavora in finanza, siamo d'accordo, ma andiamo con, fatemi fare il programma e poi risponderò anche ai molti messaggi a favore o contro l'uscita della Gran Bretagna. Dicevo, per quello che riguarda il resto, oltre ai mercati finanziari, il petrolio oggi è di nuovo in calo di quasi il 3% a $46 al barile. Il Giappone lascia i tassi invariati, così come ha fatto la Federal Reserve, come ha fatto la Banca Centrale Inglese, come ha fatto la BCE. Non è periodo per toccare i tassi tra, insomma, Brexit, dopodiché abbiamo elezioni in Spagna, poi l'anno prossimo abbiamo elezioni negli Stati Uniti e poi l'anno prossimo avremo elezioni in Germania, insomma, forse. Comunque, la Bank of England, la Banca Centrale Inglese, ha detto che il rischio di un impatto sull'economia mondiale, l'addio all'Unione Europea è una minaccia, è terrorizzata la Banca Centrale d'Inghilterra, è una minaccia primaria alla stabilità finanziaria. Il Brexit rappresenta la maggiore minaccia alla stabilità finanziaria britannica, ma parzialmente anche a quella mondiale. Ora, uno può dire che anche il banchiere centrale britannico, che tra l'altro è un canadese, la dimostrazione di quanto il teorema Wimbledon funzioni in Gran Bretagna, dico, può anche dire che la Bank of England è in mano, per carità, però prima di dare dei pazzi a tutti, dei faziosi a tutti, attenzione, non è che la verità sta solo nella Vox Populi, Vox Dei e il governatore della Banca d'Inghilterra, istituzione prestigiosissima che non fa parte dell'euro, spara solo cavolate, perché insomma, invidio le sicurezze di certi apprendisti stregoni che scrivono: ma tanto se dovesse uscire non capiterebbe niente. Beati voi che avete tutte queste certezze. Ci sono delle persone che hanno delle certezze su tutto. Usciamo dall'euro, non capita niente. Anzi, tutto meglio, improvvisamente. Diventiamo più efficienti, più produttivi, meno burocratici, meno corrotti, meno evasori. Tutto diventa, basta uscire dall'euro. Va bene. Andiamo avanti, dicevo, vedo che la Brexit comunque continua a essere il vostro tema. Per quello che riguarda altri temi di carattere nazionale, oggi il Presidente del Consiglio Matteo Renzi su Facebook ha scritto, perché oggi è il giorno, dunque praticamente il governo vuole stabilire, l'ho detto il sottosegretario Casero, che il nuovo tax day 2017 verrà definito per evitare un tax day anche nel 2017, quindi stanno lavorando a un tavolo per nuove scadenze che verranno messe a calendario entro ottobre, però dicevo che il tax day di oggi, Matteo Renzi lo ha chiarito, il 16 giugno si pagano le tasse, non è un giorno di festa, ma quest'anno se ne pagano meno, le chiacchiere stanno a zero. Sulle tasse era intervenuto anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, ricordando come vi siano 10 miliardi in meno tra IMU, TASI e IRAP. I conti pubblici già tengono conto di una copertura strutturale di questi tagli di tasse e di altri. Infatti vorrei ricordare che da domani il sollievo fiscale per imprese e famiglie italiane ammonta a 10 miliardi, 3 miliardi e mezzo per la TASI, 5 miliardi e mezzo per l'IRAP sul lavoro e quasi un miliardo per l'IMU. Ministro, c'è ancora spazio per tagliare l'IRPEF sul ceto medio già dal 2017? Alcuni tagli per il 2017 come l'IRES già sono stati legislati con la legge di stabilità precedente. Quanto agli spazi vedremo il momento in cui dovremo decidere complessivamente sulla legge di stabilità. Allora, dunque, il dirigente, qui la vicenda Consob torna ad aprirsi. Ieri il ministro Padoan ha detto, no, insomma, la Consob è un'autorità indipendente, per carità. È un po' diversa dalla Banca d'Italia, ce l'ha fatto notare in diretta, in maniera molto limpida, l'ex commissario Consob Marco Nado, editorialista del Sole 24 Ore, che ha detto, sì, è un'autorità indipendente, però fa riferimento al Ministero dell'Economia. Padoan ieri ha detto no, è indipendente, basta, e Vegas ha respirato. Però faccio notare che il dirigente della Consob, Marcello Minenna, a capo dell'ufficio di analisi quantitative, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, accusa il presidente Vegas di aver dato lui, cioè Vegas, l'indicazione che le banche non indicassero la percentuale di rischio di recupero sul capitale investito, i famosi indicatori sintetici che secondo la Gabanelli, questa è l'accusa a Vegas, Vegas avrebbe fatto togliere anche quelli su base volontaria, e a quel punto creando ulteriormente confusione sulle obbligazioni, mi riferisco alle quattro banche, perché è stato interrogato appunto dalla procura di Arezzo e ha detto Vegas ha dato l'indicazione che le banche non indicassero la percentuale di rischio di recupero sul capitale investito nei prospetti sui bond, cambiando così le regole. Minenna avrebbe confermato il cambio delle regole sull'obbligo di dichiarare nei prospetti informativi gli scenari probabilistici di rischiosità. Minenna è stato accusato a sua volta dal presidente Vegas di avere compiuto comportamenti irregolari per i quali è stata aperta un'indagine interna. La Consob ha fatto notare che non c'è mai stato l'obbligo di inserire gli scenari nei prospetti. Lo sappiamo tutti, cara Consob, che non era un obbligo. Il problema è capire se è vero o no che Vegas ha detto levatelo anche quando volontariamente volete metterlo. Dopodiché, insomma, il problema di Vegas è politico. Il ministro Padoan avrà dato anche lo scudo e l'ombrello, ma il ministro Calenda si è espresso chiaramente, il vice ministro Zanetti pure. No. La mia opinione non conta, per cui è inutile che vedo messaggi che me la chiedate. Mi sembra abbastanza chiaro cosa dovrebbe fare Vegas, secondo noi. Ovviamente restare. I 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, sono sui dati auto, così risponde un ascoltatore che mi diceva non commenti, dati auto, sì. Vola oggi il dato sulle immatricolazioni di Fiat in Europa, più 25% a maggio per Fiat Chrysler Automobiles, la quota sale al 7,4%, nei primi 5 mesi Fiat Chrysler ha fatto più 17,6%, c'è un balzo complessivo del mercato auto che fa più 15,5, però Fiat fa un 10% in più. Complimenti a Marchionne e alla sua squadra. E allora, mentre oggi il numero uno della Volkswagen, Matthias Müller, prospetta cambiamenti rivoluzionari per la casa di Wolfsburg dopo lo scandalo del Dieselgate, sentiamo allora i 100 secondi oggi a firma del vice direttore Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Rioli, trasmessi, lo ricordo, anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Rioli. Da casa automobilistica simbolo dello scandalo sul Dieselgate a primo colosso produttore di auto sostenibili, la svolta annunciata oggi dal nuovo AD della Volkswagen, Matthias Müller, sarà anche una inevitabile trovata propagandistica per uscire dall'angolo in cui la casa tedesca era finita dopo le denunce americane, ma anche parecchi argomenti per motivare davvero quello che il nuovo capo azienda ha definito come il più grosso cambiamento nella storia del gruppo Volkswagen. Al primo punto c'è la riconversione strategica da produttore di auto a fornitore di mobilità, assecondando il cambiamento epocale che investe l'intero comparto dell'automotive a partire dal car sharing e dai nuovi fenomeni dell'economia condivisa, che vede oggi molte marche impegnate in progetti di mobilità urbana. Volkswagen ha anche spiegato che intende entrare nel mercato delle vetture low cost, dove oggi non è presente, e ha annunciato anche che intende scommettere sulle auto elettriche, con l'obiettivo di arrivare nel 2025 a produrre 2-3 milioni di veicoli l'anno a batterie, e dentro quella data verranno lanciati ben 30 modelli a propulsione elettrica. Müller ha anche annunciato che investirà diversi miliardi di euro per l'auto che si guida da sé, e la prima vettura a guida autonoma prodotta dal gruppo tedesco arriverà sul mercato nel 2021. Per la prima volta il gruppo ha deciso di scorporare in una società autonoma anche il settore della componentistica e si tratta di 26 fabbriche con ben 67.000 addetti. Volkswagen continua intanto però a pagare sui mercati le conseguenze del Dieselgate. Le sue vendite di auto a maggio in Europa ad esempio sono salite dell'8,8% contro il 16% invece degli altri paesi europei. Insomma, la strada per l'ingresso nella nuova virtù ecologista è ancora lunga. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora. Dunque, mi scrive un ascoltatore: mai un cenno ai suicidi di questi giorni a causa della Banca Popolare di Vicenza. Guardi che se abbiamo parlato di una banca, è proprio la Popolare di Vicenza, Veneto Banca. Ho visto ieri che Consoli vive tranquillamente a Vicenza, nella sua villa palladiana, e ha anche contestato e vuole la buona uscita. Io non so, guarda. Sì, certo, per fare quelle cose a quei vertici deve avere un pelo sullo stomaco, che poi ti consente anche di girare nei luoghi dove hai distrutto risparmi, non temendo nemmeno per la tua incolumità, cioè di avere anche l'arroganza di dire mi merito la buona uscita. Io non so, veramente. Deve avere veramente quella faccia lì per poter fare certe cose. Comunque, che mi quereli Consoli, perché 2 lire le vorremmo raccogliere quest'anno in più, per cui aspetto la querela di Consoli su questo. Allora, vedevo altre domande appunto su Popolare di Vicenza. Sì, cosa è successo? Stanno ancora cercando di capire. Attenzione però, perché la serietà, l'avvocato ha chiarito che c'era anche un problema di... che pare che l'uomo fosse molto malato. Lo ha chiarito l'avvocato Renato Bertelle, che difende gli azionisti della Banca Popolare di Vicenza. Cosa è successo? Un ex operaio di 69 anni si è suicidato ieri sera nella sua abitazione a Montebello Vicentino. Per cui si era rivolto all'avvocato per una consulenza, avendo lui azioni della Popolare di Vicenza. Però attenzione, l'ultima cosa che vogliamo è speculare sui disastri, sulla morte in primo luogo, ma anche sui disastri e tragedie generati dai mitici banchieri del nord-est Gianni Zonin e Vincenzo Consoli e tutta la cricca che ha girato attorno a loro per anni, di poteri locali, prefetti, procuratori. Ma adesso la rifacciamo domani la lista di quello che sta emergendo: sindaci, ex dipendenti della Banca d'Italia, il potere locale, le banche del territorio, no? La società civile, che è sempre meglio di quella politica. Beh, stavolta possiamo dire che la società civile ha fatto più schifo di quella politica, nel caso di Vicenza, Etruria, Veneto Banca, Marche, Ferrara, Chieti. Io non è che voglio difendere i politici, ma possiamo dire che questa società civile, quando poi opera, la mette in quel posto a gente che gli abita davanti, accanto, e che se ne frega se sei vecchietta, se sono i risparmi di una vita, se sei concittadino vicentino, se abiti ad Arezzo o diciamo in tutta la provincia aretina, se ne strafrega. Eccola la società civile in alcuni casi. E basta, dai, andiamo sul metro, pubblicità e poi partiamo. Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, guardate che a me non frega nulla, come a nessuno di noi, qual è la pubblicità che va in onda durante la pausa. Ho capito che c'era quella di Veneto Banca, a parte che è la nuova Veneto Banca, quindi ha diritto di farsi pubblicità, ma non cambia nulla il ragionamento che abbiamo fatto su questa retorica inutile della società civile locale, territoriale, federale, che è sempre meglio della società politica. E si è visto quanto meglio erano i vari Zonin, Consoli, Boschi e Company, Boschi padre e Company, nel gestire queste banche e nel, diciamo, creare ricchezza sul territorio. Vabbè. Allora, il sogno è molto facile, il sogno è smetterla con queste frasi fatte, con queste diciamo ideologie. La società civile è sempre meglio di quella politica, abbiamo scoperto che delle volte è anche peggio, penso un po', che l'uscita dall'euro risolverà tutti i mali di questo paese improvvisamente, come se questo paese non fosse frutto dei danni che noi abbiamo fatto, anche la classe politica, a sto paese, ma fosse sempre colpa del termometro, la febbre, ossia colpa dell'euro se siamo in questa situazione. Cerchiamo di diventare un paese serio, non solo bravo in orale. Poi, se vogliamo credere alle fatte, crediamo che la società civile è meglio di una società politica che viene da Marte, crediamo che basti uscire dall'euro perché a quel punto tutto il paese diventi un modello svedese, niente più evasori né funzionari pubblici che non timbrano il cartellino. Vabbè, crediamo a ste cavolate, ok? Andiamo avanti così. fare i compiti iscritti è più serio, ma forse costa più fatica. Allora, sì, sono io il populista, ha ragione. Meno 1% Milano, meno 0,45% Parigi, meno 0,60% Francoforte, meno 0,15% Londra. Oggi devo dire che insomma, ci sono dei cali, per carità, ancora le banche, ma nulla a che vedere con quello delle ultime, con quanto capitato nelle ultime settimane. Come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore, partiamo allora dalla borsa per quello che riguarda l'andamento di oggi, e la facciamo con Ceo Condina. Buonasera Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Brexit, l'abbiamo detto, stradetto, ne parleremo più avanti. Qualche spunto più specifico c'è su Monte dei Paschi e su Popolare di Milano. Sì, diciamo che oggi le perdite di Milano a un certo punto attorno alle 4 del pomeriggio sono arrivate anche al 2,5%, poi c'è da rilevare questa fiammata che è arrivata nell'ultima mezz'ora, che ha consentito di ridurre le perdite in maniera importante. Il Monte dei Paschi chiude comunque vicino ai minimi storici, perde un altro 3,3%, BPM invece è un titolo che perdeva quasi il 4%, sul finale ha recuperato molto, perde lo 0,9%, ma qui come sappiamo ci sono nuovi contrasti in arrivo su quella che potrebbe essere la fusione dell'anno tra le popolari, tra BPM e il Banco Popolare. L'associazione dei pensionati soci infatti prepara una forte opposizione in assemblea e sicuramente il titolo ne sta risentendo in questi giorni. Sì, vedo molte domande anche sull'andamento dei bancari al 349-238-6666, sia su SMS che su WhatsApp. Andiamo avanti però, ancora di nuovo. Allora, noi ci stiamo abituando, lo dico con molta tranquillità, cioè che cali tra il 3 e il 2% siano cose normali, perché a forza di vedere cali tra il 4 e il 5, no, sembra la barzelletta di quello che cade dal grattacielo e a metà gli chiedono come va e lui risponde fin qua tutto bene, capito? Per cui, cioè, però i cali ci sono. Oggi Unicredit ha perso un altro 2,20%. Unicredit continua a sprofondare, qui l'attesa è tutta per la nomina del nuovo amministratore delegato. Led Hunter e Gonzender, cioè la società che sta cercando di selezionare un AD adeguato al ruolo, dovrebbe presentare una rosa di candidati entro il 23 giugno. Ci sono alcuni soci che chiedono con forza che si stringano i tempi per la scelta dell'amministratore delegato, anche perché il titolo già da prima scendeva, ma da quando è andato via Ghizzoni, o da quando insomma Ghizzoni ha presentato le dimissioni, che comunque certo. Ghizzoni sta operando come AD, insomma il titolo è sprofondato, anche perché il mercato sconta l'assenza di un vero leader, perlomeno in pectore. Ancora tra i titoli, oltre le banche. Ora, io una cosa che non capisco, i dati di Fiat sull'immatricolazione, abbiamo fatto anche i 100 secondi su questo, sono più che buoni, 15% al mercato, più 15% al mercato, più 25% Fiat. E perché il titolo oggi è stato debole tutto il giorno? C'è anche un report abbastanza importante di Citigroup che consiglia di vendere il titolo su una motivazione che comunque è condivisa da diversi analisti, cioè il fatto che Fiat rischi di bruciare cassa per gli investimenti. Ci sono forti preoccupazioni sul cash flow di Fiat, secondo Citigroup, e sicuramente questo elemento ha penalizzato il titolo. Ancora per quello che riguarda i titoli, al di là di Fiat, sì, contano più i report delle vente, forse le vente le aveva già incamerate il titolo? Può essere, comunque Fiat da diversi mesi che presenta delle vendite in crescita, così come all'incirca tutto il mercato auto che recupera dai minimi storici degli ultimi anni. Allora, vediamo chi si è difeso oggi. Azimut più 0,90, Exor, la controllante di Fiat, più 0,60, Enel più 0,50, Ferragamo più 0,20%. Ancora migliori e peggiori in assoluto oggi sul listino, in assoluto tra i migliori Sintesi più 8%, P-Quadro più 5,50, Expivia più 4,70, la Lazio più 3,90, Bastoggi più 1,90, fronte opposto Safebag meno 15%, Gala meno 12%, Banca profilo meno 9, agronomia meno 9%. Grazie a Ceo Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Ah. Allora, ci chiedete se è normale per una banca come Unicredit rivolgersi a un cacciatore di teste. No, non è normale. Fai fuori i ghizzoni, l'abbiamo detto mille volte in queste settimane, devi già avere pronto il nome. Ma non è normale soprattutto che il presidente dica entro due mesi avremo un nuovo numero uno. A prendere 3-4 a sto punto, ma facciamo 6 mesi, facciamo inizio 2017, così non ci pensiamo più. Ma stiamo impazzendo? Il primo gruppo bancario italiano, primo, secondo, pari metro con Intesa, il più internazionalizzato, presente in Austria, in Polonia, così, due mesi per trovare uno che è già fatto fuori? Cioè, chi prende il posto di uno che hai fatto fuori, potevi aspettare, no? Ma li abbiamo già definiti dilettanti allo sbaraglio, e gli azionisti stranieri sono leggermente arrabbiati per la gestione dilettantesca della vicenda Ghizzoni. Altre risposte per quello che riguarda no, guardate che cosa dovrebbe fare Consoli, Zonin, cosa farebbe, a parte che c'è la legge, diciamo che non avrei chiesto il 1,5 milioni da una parte, 1,7 milioni dall'altra, vado a memoria, di premi che hanno ottenuto. E se proprio devo dirla tutta, poi così mi date del populista, visto quello che è successo tra Montebelluna e Vicenza, magari avrei detto, sapete che c'è, la banca ha distrutto risparmi di gente per bene, per cui a questo punto creerò una fondazione almeno di aiuto, di supporto per le famiglie messe peggio, per i pensionati, per i bambini, cioè fai un gesto. Se no, vabbè, traffico. Focus Economia. Cambiamo tema perché non ce la faccio più. Andiamo a San Pietroburgo, dove, e andiamo a San Pietroburgo per poi parlare di Made in Italy anche nella seconda ora del programma, dove oggi è iniziata è iniziato il forum più importante dell'anno per la Russia, Forum Russia-Unione Europea. È intervenuto oggi Juncker, Presidente della Commissione Europea, ma è un forum particolarmente importante per l'Italia perché noi siamo il paese, diciamo, ospite d'onore, è l'unico ad avere un padiglione. E già oggi, come anticipavamo, sono stati firmati i contratti, se ho ben visto, per 1 miliardo, accordi per 1,4 miliardi di euro. E a San Pietroburgo c'è la nostra Laura Bettini. Laura, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, il giorno clou è domani, per quello che riguarda noi, arriva Renzi, rincontro Renzi, Putin, però già oggi Juncker è intervenuto e tu hai già ascoltato alcuni dei, diciamo, degli italiani lì presenti, Laura. Sì, esattamente, come tu dicevi, infatti oggi sono già stati firmati alcuni accordi e memorandum d'intesa, insomma sono vari, 9 in totale, al padiglione italiano che è stato inaugurato proprio oggi e... come ricordavi, mi hai anticipato, un controvalore complessivo di questi accordi che saranno firmati tra oggi e domani di circa 1,4 miliardi di euro per i contratti in via di perfezionamento. Se poi pensiamo al potenziale di commesse per le imprese italiane, allora si passa veramente a svariati miliardi. Che genere di contratti, parlato? Laura, sono stati firmati? C'è un po' di tutto. Adesso vi faccio sentire Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa, che è anche il presidente di Conoscere Eurasia, che ha organizzato questo padiglione, quindi tenuto un po' le fila anche dei Laura, contratti, per la precisione, visto il periodo, presidente di Banca Intesa Russia, perché il presidente di Banca Intesa Russia, no, per perché carità, sennò già manca quello, la D di Unicredit, manca solo che facciamo casino noi. Fallico. Sono accordi molto importanti, alcuni contratti, altri accordi maturati negli ultimi mesi, negli ultimi 12 mesi, sono molto significativi perché spaziano in vari campi dell'economia e che aiutano a stringere i rapporti di business tra Italia e la Russia. Cioè, ci sono nuovi settori, quali sono? Diciamo oil e gas, nuovi, che non è un nuovo settore, ma le tecnologie sono nuove, sono tecnologie di avanguardia, l'Italia è in grado di farlo, settore delle infrastrutture, settore dell'agroindustria. Anch'io sono molto meravigliato come in pochissimo tempo le aziende italiane si sono acclimatate alla nuova situazione, quindi hanno cominciato a produrre qui oltre che a esportare. Ovviamente la finanza, noi siamo uno di questi, qui c'è fra parentesi c'è presente il fondo MIR, che è un fondo private equity che nonostante le sanzioni ha continuato ad investire sia in Italia come in Russia. Quindi io sono nell'aerospace, domani si firmeranno contratti molto importanti nell'aerospace e nell'oil e gas, quindi queste sono, diciamo, le strutture importanti del nostro interscambio commerciale con la Russia. Allora, Laura Bettini, tu hai ascoltato anche per esempio chi rappresenta gli imprenditori italiani in Russia, e poi vorrei capire cos'è questa domanda che sta arrivando dalla Russia di Made with Italy, non solo Made in Italy, però abbiamo il GR24, ti riprendo dopo il GR 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e in collegamento sempre con San Pietroburgo, dove è iniziata la prima giornata del forum Russia Unione Europea che vede l'Italia protagonista e ospite d'onore. Eravamo in collegamento, lo siamo tuttora, con la nostra Laura Bettini. Laura, tu hai raggiunto anche chi rappresenta, diciamo, le imprese italiane in Russia. Esattamente, e come anticipavi tu, abbiamo parlato anche del cosiddetto Made with Italy, cioè non è più una produzione fatta in Italia e poi venduta in Russia, ma una produzione fatta da aziende italiane con partner russi in Russia, ed è anche un modo per superare questo momento di crisi, ma anche per produrre nuova impresa. E ne abbiamo parlato con Vittorio Torrembini, che è il vicepresidente di GIM Un'Impresa, che è un'associazione per l'appunto di imprenditori italiani in Russia. Tutti accordi estremamente interessanti, perché poi sono accordi di aziende che hanno attività qui in Russia e che hanno grandi prospettive di sviluppo, e soprattutto sono interessanti le controparti russe, perché stiamo parlando dei maggiori cioè delle maggiori aziende di questo paese, Rosseti, che sarebbe la corrispondente della terna italiana, stiamo parlando di Rosautodor, che sarebbe la nostra, la ANAS, la corrispondente dell'ANAS, stiamo parlando di regioni importanti come quella di Stavropol e del Caucaso del Nord. Si sta allargando la base, diciamo, numerica delle aziende italiane qui. Le aziende italiane hanno, nei momenti di crisi, hanno comunque resistito. In questo periodo ci stiamo addirittura allargando la presenza, nonostante la diminuzione dell'interscambio e così via dicendo, perché paradossalmente aumentano le possibilità di cominciare a fare affari. E così appunto ci diceva Torrembini. Ecco Laura, abbiamo avuto un problema di collegamento su questo. Senti, domani c'è, dicevo, la giornata clou, non solo, ma anche perché arriva il Presidente del Consiglio Renzi e incontra Putin. Esattamente, sicuramente è una giornata per l'Italia fondamentale, ma anche per la Russia, appunto, visto che ha scelto l'Italia come partner in questo forum 2016. Arriva il presidente del Consiglio italiano, in realtà arriva già stasera, comunque ufficialmente la presentazione è domani, e poi nel pomeriggio altri accordi, altri momenti di incontro al padiglione italiano che seguiremo ovviamente insieme. Allora sì, ti do appuntamento domani con Focus Economia, grazie intanto alla nostra inviata Laura Bettini. Sì, restiamo in tema di Made in Italy, poi Made with Italy, come ci raccontava la nostra Laura Bettini da San Pietroburgo, perché c'è un altro aspetto importante del Made in Italy, non solo la voglia, che ormai è confermata da qualunque ricerca mondiale, di Made in Italy o Made with Italy a livello mondiale. C'è anche un altro fenomeno, purtroppo gli inglesismi si sprecano, è il fenomeno del reshoring. Cosa vuol dire? Vuol dire ritornare nel lido natio, e quindi sono quelle aziende che, proprio perché si sono rese conto che il Made in Italy si fa meglio in Italy che non delocalizzando, stanno ritornando a produrre in Italia. E non a caso oggi ne discutono gli imprenditori di una delle zone più colpite, insomma, o per non dire colpite, dove più si verificò il fenomeno della delocalizzazione. Mi riferisco al nord-est, al Veneto e al Friuli, anche perché la vicinanza con la Romania, ricordate Timisoara, distretto industriale Veneto? Ecco, era proprio il Veneto, e proprio a Venezia in questi minuti stanno discutendo di come delocalizzare, sì, ma in Italia. Allora, grazie per essere in collegamento con noi il presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Matteo Zoppas. Buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera a tutti. Allora, dicevo, insomma, prima Laura Bettini ci raccontava quanta voglia c'è di Made in Italy, a maggior ragione dopo l'embargo, ma non solo per questo, in Russia, quanta voglia di lavorare con l'Italia e produrre con l'Italia. Voi state assistendo al rientro di molte, non dico tutte, ma di molte attività produttive in Veneto. Dal 2009 sono rientrate in Italia circa 120 grandi marchi contro i 320 in America, in tutti gli Stati Uniti, i 60 in tutta la Germania, i 70 in tutta la Gran Bretagna. Sono tornate soprattutto le aziende del nord, e il Veneto è leader, 36 aziende rientrate dal 2009 ad oggi, 21 in Emilia Romagna, 18 in Lombardia, 7 in Piemonte, 6 in Friuli, 4 in Liguria, 3 in Trentino e poi una ventina nel centro Italia. La metà rientra dall'est, dalla Cina, dal Far East, e un quarto dall'Europa dell'est e il resto da altri paesi dell'est. Zoppas, però voi dite delocalizzare in Italia si può fare quando la forza del Made in Italy supera gli ostacoli del sistema paese. In primo luogo, perché rientrano, al di là della bravura dei nostri artigiani? Sicuramente gli imprenditori italiani non possono non guardare a un bilancio, a un conto economico. È chiaro che quando i costi del produrre in Italia sono superiori ai prezzi che vengono fatti dai nostri concorrenti all'estero, l'azienda non è più sostenibile, quindi non c'è più possibilità di fare produzione in Italia. Questo è normale. Quindi quando tu mi chiedi, Sebastiano, quando torno in Italia, quando l'equazione del Made in Italy supera, usiamo questo termine, il cost in Italy, allora cominciano a esserci le possibilità di rientrare in Italia. Gli imprenditori che sono andati all'estero non l'hanno fatto a cuore leggero, l'hanno fatto naturalmente sacrificando tempo passato in Italia, sacrificando la loro affezione verso l'Italia, non vedono l'ora di tornare. È chiaro che oggi all'estero produrre non è più conveniente come prima. Dall'altra parte c'è il fatto che il prodotto che ha un marchio Made in Italy, non per il marchio Made in Italy, ma per quello che veramente rappresenta, con qualità, servizio, contenuti di alto lusso e quant'altro, rende possibile a questo prodotto italiano di far riconoscere da parte del cliente in generale un prezzo più alto rispetto a, per cui l'essere in Italia comporta un differenziale sì di costo da una parte, ma anche un differenziale di prezzo. Nella somma delle due cose, quando l'equazione conviene, allora noi siamo contenti di tornare a casa. Allora, su questo però, Zopas, se voi o se le imprese, se i suoi colleghi imprenditori rientrassero solo perché sono saliti i prezzi all'estero, non è che avremmo ottenuto granché. Voglio dire, è ovvio, l'abbiamo raccontato, che anche i prezzi, il costo del lavoro in altri paesi non sono più quelli degli anni 90. Però se dobbiamo giocarla solo ed esclusivamente sul costo del lavoro, dici ok, però la prossima volta appena si apre un nuovo mercato del lavoro con costi più bassi, ritorni all'estero. A noi era sembrato di capire però che c'è anche un bilancio che gli imprenditori hanno fatto, e cioè certo che il costo del lavoro è importante, però poi anche la qualità, l'affidabilità di quello che viene prodotto lo è altrettanto, e ci si è resi conto che, a meno che di non avere proprio differenze enormi, è meglio avere un costo del lavoro leggermente più alto in Italia ma con una garanzia di maggiore qualità? Sì, è proprio quello che stavo dicendo, cioè la garanzia di maggiore qualità, il migliore servizio e tutti questi elementi che comunque posizionano normalmente il prodotto Italia in un posizionamento sicuramente più alto e più che fa riconoscere un prezzo migliore, ecco, come dicevo, crea un differenziale di prezzo sul prodotto che fa combattere tutti gli elementi di costo aggiuntivi. Breaking news. Allora, brutte notizie. Purtroppo la polizia britannica in conferenza stampa ha appena reso noto che la deputata laburista Jo Cox è morta dopo essere stata assalita, dopo essere stata accoltellata questo pomeriggio nella West Yorkshire, nei pressi di Leeds, da un uomo di 52 anni. La deputata appunto è morta a causa delle ferite riportate sia per l'accoltellamento sia anche per la sparatoria che ne è seguita. Focus Economia. :20, grazie al nostro Sergio Nava per la breaking news, ahimè tragica. Adesso si sta cercando di capire che cosa sia successo esattamente in Gran Bretagna. Grazie anche a Matteo Zopas, che è tornato nella sua assemblea. Non siamo riusciti a salutarlo in diretta per via della breaking news, ma una cosa la voglio dire, perché ne parlavamo in apertura: il confronto che oggi propongono gli industriali di Venezia e Rovigo in tema di costi, cioè di reshoring, cioè di chi ritorna, ma anche di attenzione ai costi, è il seguente: hanno preso un prodotto identico e sono andati a vedere quanto costa quel prodotto a seconda di dove venga prodotto. Allora, costa, tolte le materie prime, perché è chiaro che sennò lì, ma quindi solo il costo burocratico, tassazione, fiscalità e quant'altro, costa 119 in Italia, euro, costa 118 euro in Germania, quindi noi abbiamo un costo al netto della variabile energetica anche più alto della Germania, 114 in Svizzera, questo mi fa impazzire perché la Svizzera è naturalmente un paese caro, e poi se si va negli Stati Uniti costerebbe 87 euro, anzi costa 87 euro, in Messico 58 euro e si finisce con la Romania dove costa 54 euro, sempre rispetto ai 119-120 euro italiani. Qui c'è il tema del costo, guardate che non è la busta paga del lavoratore che in Italia è alta, è il cuneo fiscale che è alto, ma non c'è solo questo, ci sono le famose riforme a costo zero, la burocrazia inutile per le imprese, le lungaggini burocratiche dovute alla poca efficienza per essere buoni della nostra pubblica amministrazione anche locale, dei giardinetti, abbiamo chiesto mille volte in questi anni l'autocertificazione anche per le imprese, come avviene per i cittadini, cioè andare a snellire la trafila burocratica. Sono riforme a costo zero, lo Stato non deve mettere un euro. A proposito di stati e di non di euro ma di sterline, colleghiamoci con Londra, perché adesso insomma da domani parte il viaggio di Radio 24, anche oggi la Brexit tiene banco, ormai sono 7 giorni insomma praticamente dal referendum, e ieri appunto il cancello scacchiere George Osborne che lancia l'allarme, ci costerà, il ministro dell'economia britannico, 30 miliardi di sterline, quasi 40 miliardi di euro nei conti pubblici, quindi forse in maggior tasse. Oggi la banca centrale inglese Bank of England che dice c'è un rischio di impatto, sicuramente il principale shock sull'economia britannica, ma anche un rischio di impatto sull'economia mondiale. E il Fondo Monetario che dice: con la Brexit la volatilità sarà più alta e la crescita più lenta. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento Lorenzo Codogno, collegamento da Londra, dove è la London School of Economics. Buonasera Codogno. Buonasera. Lei oggi su Sole 24 Ore scrive: Brexit, lo spettro della svalutazione. Ora stiamo ragionando da giorni sui vari effetti, i rischi, gli effetti economici di un'eventuale uscita della Gran Bretagna. Che cosa vuol dire il rischio, lo spettro della svalutazione? Perché c'è qualcuno che quando sente la parola svalutazione è contento e dice: vedi, anche noi se avessimo una lira potremmo di nuovo svalutare. Perché lei lo chiama spettro? Beh, perché è un processo che può partire, può stabilizzarsi in qualche momento in un futuro, potrebbe anche andare fuori controllo e potrebbe scatenare una crisi più bassa portata. Quindi è difficile nei mercati finanziari prevedere quali possono essere gli effetti secondari di uno shock così forte come una svalutazione di un 10-15% in tempi molto brevi della sterlina. E questo, a mio avviso, è uno degli effetti quasi sicuri di Brexit. Gli altri sono più incerti e non è chiaro se si verificheranno pienamente, ma la svalutazione della sterlina è uno degli effetti che quasi sicuramente avverrà. Questo per un motivo molto semplice, perché Brexit bloccherà di fatto i flussi di investimento, almeno temporaneamente, e questo vuoto temporaneo di fatto farà emergere un problema di bilancio dei pagamenti che nel breve periodo può portare a una crisi valutaria. Senta Codogno, però questo è il problema per gli inglesi, nella serie, però ogni popolo è artefice, adesso so già la battuta, beati loro che votano, ma insomma ognuno si occupi del suo destino. Per noi italiani, o meglio noi nell'Unione Europea, abbiamo detto in apertura, il rischio, o meglio i danni politici della Brexit sono chiari a tutti, poi c'è chi non li chiama danni, li chiama opportunità, ma i danni sono chiari, quelli finanziari, economici sono stime. Ora mi sembra anche qui che sia abbastanza chiaro che la maggior parte degli osservatori dicono la Gran Bretagna ne avrà un danno economico, ma perché dovremmo avere un danno economico anche noi nell'Unione Europea? La Gran Bretagna del resto è un importatore netto, cioè importa molto molto più di quanto non riesca a esportare, e quindi continuerà a importare i nostri beni. Il danno economico per il resto dell'Unione Europea è sicuramente molto più limitato, in particolare per l'Italia, che ha comunque dei rapporti commerciali molto ridotte rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, e anche flussi di investimento sia in un senso che nell'altro abbastanza limitati. Ecco, questo sicuramente porta a rischi molto più ridotti rispetto ad altri paesi. Tuttavia non va sottovalutato l'effetto politico, un effetto che potenzialmente potrebbe essere un effetto domino, e teniamo presente che comunque Brexit è un grandissimo voto di sfiducia sul progetto europeo più importante degli ultimi 50 anni. Quindi non potrà che avere conseguenze anche per l'Unione Europea. Allora, sì, ha ragione qualcuno che scrive: guardate che Brexit è stato un errore clamoroso di Cameron per rafforzarsi. L'abbiamo anche raccontato. Cameron pensava con questo referendum di rafforzare i conservatori, e invece è un boomerang che gli sta arrivando, diciamo, addosso. Sono errori topici, diciamo, così come quello di Hollande e Valls nel fare una riforma in pieno europei di calcio, rischio terrorismo, beccarsi di sciopero, ci sono errori di carattere politico, non di altro genere. Ma secondo lei si sta facendo, Codogno, troppo allarmismo? Lasciamo stare per un secondo le conseguenze per i britannici, che secondo me continuano a sottovalutare, e tanto, quanti vantaggi gli dia l'Unione Europea. Ho sentito dire: il Parlamento europeo non è eletto, sono cavolate, viene eletto dalle votazioni europee. La Gran Bretagna è un contribuente che ci guadagna, no? A differenza dell'Italia, cioè riceve dall'Unione Europea più di quanto versi. Ma detto ciò, non ritiene che vi sia un po' troppo allarmismo per gli altri? Federal Reserve, Banca Centrale Europea, oggi Juncker, Tusk, Fondo Monetario. Insomma, sembra quasi che finisca il mondo se la Gran Bretagna lascia l'Unione Europea. Sì, c'è un tentativo di accentuare i toni, di drammatizzare, questo è ovvio. A volte questo avviene per motivi di scelta di parte, cioè alcuni politici anche a livello internazionale, non soltanto quelli inglesi, forzano la mano per lasciare un messaggio politico che poi non necessariamente funziona, perché il popolo inglese chiaramente è molto orgoglioso. Secondo me è controproducente. È controproducente, sono d'accordo. Che cavolo. E quindi non vogliono farsi dire cosa fare. E quindi questo qui, c'è questo fattore. C'è anche un fattore più tecnico, se vogliamo, perché molte di queste stime vengono fatte con ipotesi, con assunti ovviamente stilizzati, come di solito si fa per le simulazioni economiche, che non necessariamente sono quelli più veritieri. Inoltre, di solito non si ipotizzano reazioni di policy, mentre sappiamo benissimo che sia la Banca d'Inghilterra che la BCE, sia il e anche il governo inglese ovviamente, reagirebbero ad un voto a favore di Brexit e metterebbero in piedi delle politiche per limitare i danni. Quindi è verissimo, secondo me, che per quanto riguarda il rischio di medio periodo, tenendo presente che comunque l'economia inglese è un'economia sana, è molto flessibile e ha le capacità di reagire, probabilmente il rischio nel medio periodo è sovrastimato. Tuttavia, nel breve, i rischi sono forse sottostimati, perché storicamente uno shock così forte può scatenare effetti a catena sui mercati finanziari, anche su asset che non hanno molto a che fare col mercato inglese. Questo è accaduto in passato per eventi anche molto più marginali. Ricordiamo cosa è accaduto per il referendum danese del 92-93 e quello che ha provocato sostanzialmente la crisi valutaria in Europa. Quindi un evento di portata, se vogliamo, molto più limitata, che però ha avuto le conseguenze molto forti. Detto questo, sì. Di solito nei mercati finanziari gli eventi che portano a grandi sconvolgimenti sono quelli non attesi. In questo caso questo è un evento attesissimo, quindi speriamo che sia dal punto di vista della reazione politica, sì, sia dal punto di vista della preparazione degli investitori a possibili eventi negativi, ecco, questo dovrebbe essere un dato positivo. D'accordissimo con lei, la riavremo ospite Codogno nella lunga diretta del 23 sera dalle 21 in poi. Ci sarà a Londra il nostro Sergio Nava. Grazie intanto a Lorenzo Codogno della London School of Economics. È veramente tutto per questa puntata. Da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.